in primo piano. Lunedì 19 luglio è la politica certamente con l'inchiesta sulla cosiddetta P3 che tiene banco sui giornali. Io inizierei però dall'apertura del Sole 24 Ore del lunedì, che oggi si concentra sulle pensioni. L'età della pensione non si ferma, è un'importante inchiesta per cercare di capire come cambieranno le nostre pensioni nel futuro, anche alla luce della manovra approvata al Senato. Mentre per quel che riguarda alcuni titoli sulla situazione dell'inchiesta politica, il Corriere: l'inchiesta ora si allarga, la Repubblica: P3 si indaga su Dell'Utri e Caliendo, la Stampa: Mancino, giudici, non farò sconti, parla il numero 2 del CSM. E mentre il Giornale: sulla politica, Fini esce dal PDL? Sarebbe ora, questo è il titolo del Giornale. Per il Messaggero: Polverini, ecco il piano antisprechi del governatore del Lazio sulla sanità. Come dicevamo, è una settimana importante dal punto di vista politico, perché c'è la legge sulle intercettazioni che è alla settimana decisiva, e lì si vedrà la questione Finiani, non Finiani, berlusconiani, se ci saranno delle imboscate dal punto di vista politico. E poi c'è questa cosa della P3, inchiesta sulla società segreta, in arrivo nuovi indagati. Secondo il Corriere della Sera sono due giorni decisivi tra oggi e domani per il destino di numerosi personaggi coinvolti in questa indagine sulla nuova P2. In bilico sono le posizioni di chiunque direttamente o indirettamente abbia avuto contatti col faccendiere Flavio Carboni, leggo a pagina 3 del Corriere, con l'ex assessore socialista al Comune di Napoli Arcangelo Martino e con l'ex giudice tributario Pasquale Lombardi. Tutti e tre sono in carcere e sono stati intercettati in una valanga di intercettazioni che abbiamo letto sui giornali. Hanno coinvolto a vario titolo come nomi dal presidente della Lombardia Formigoni, il sottosegretario alla giustizia Caliendo, il presidente della Cassazione Vincenzo Carbone, il capo degli ispettori di Via Renula, cioè del Ministero della Giustizia Arcibaldo Miller, il presidente della Corte d'Appello di Milano Marra, l'ex avvocato generale della stessa Suprema Corte Antonio Martone. Alcuni saranno interrogati, altri da indagati. È stato interrogato per esempio sabato il governatore della Sardegna Cappellacci, l'ex assessore alla campagna Sica. Insomma, si tratta di capire se alcune di queste persone in questi giorni potrebbero diventare anche indagate. In arrivo nuovi indagati, così assicura il Corriere della Sera. Come detto, una fase, un aspetto di questa inchiesta ha coinvolto molto i magistrati, tanto che oggi il vicepresidente del CSM Nicola Mancino, che ieri è stato tirato in ballo sulla Stampa in un interrogatorio nell'interrogatorio di Pasquale Lombardi, il titolo della Stampa di ieri era "Quella volta che vidi Mancino", e allora Nicola Mancino oggi rilascia un'intervista alla Stampa a Guido Ruotolo, pagina 3. Nessuno sconto ai magistrati infedeli. Intanto il vicepresidente del CSM si giustifica. Ho letto le dichiarazioni di Lombardi. È vero, in due occasioni mi accennò alla nomina del presidente della Corte d'Appello di Milano. Ma davvero qualcuno può pensare che mi sia fatto condizionare nella scelta delle pressioni di un geometra estraneo dai problemi della magistratura? Venne da me, mi voleva invitare a un convegno della sua associazione che si doveva svolgere a Milano. Ricordo che insistette parecchio perché partecipassi all'inaugurazione di quel convegno, ma declinai l'invito. E poi come affrontò il capitolo Marra? Chiede Ruotolo. Gli dissi che non avevo ancora studiato i fascicoli, i curricula dei due candidati. Lombardi si allontanò col convincimento di non aver ottenuto nulla. Poi ci fu un altro incontro a novembre. All'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione mi fermò, accennò al problema. Ma io mi chiesi com'era possibile che un geometra si trovasse all'apertura dell'anno giudiziario. Forse fu invitato dal primo presidente della Cassazione, Vincenzo Carbone? Questo si chiede Nicola Mancino. Però Ruotolo fa notare, guardi, Lombardi è di Cervinara, lei è di Montefalcione, siete insomma conterranei, è vero che vi conoscevate da 40 anni. Il nostro rapporto, risponde Mancino, è diventato inesistente a partire dalla fine della Democrazia Cristiana. E poi ho letto il giudizio su Lombardi dello stesso sottosegretario alla giustizia Caliendo, che lo definisce un millantatore, e Caliendo, a quanto ne so, è suo amico di lunga data. Insomma, lancia qualche messaggino mica male il vicepresidente del CSM Mancino, che poi conclude così: la prima commissione del CSM ha aperto un fascicolo per il trasferimento d'ufficio del presidente della Corte d'Appello Marra di Milano. Vicepresidente di questo CSM è il sottoscritto Nicola Mancino, e la prima commissione di Palazzo dei Marescialli si interesserà anche di altri magistrati i cui nomi sono emersi nelle intercettazioni pubblicate in questi giorni dai quotidiani. Insomma, nessuno sconto ai magistrati infedeli, questo è il messaggio dell'intervista di Mancino. Sta di fatto che io mi chiedo sempre anche come si possa ricevere telefonate da certi soggetti e non mettere giù il telefono dopo un secondo, cosa che Nicola Mancino probabilmente farebbe se lo chiamasse il sottoscritto. Allora, la politica ovviamente si interroga sulle questioni, sulle ripercussioni di quello che potrà succedere. Intanto il segretario del PD Bersani fa un'intervista dopo il suo viaggio a Washington, anche criticato un po', c'è da dire questa settimana, dire ma come succede il finimondo e il leader del PD dov'è? A Washington, negli Stati Uniti. Ha fatto una settimana negli Stati Uniti, rilascia questa intervista a Repubblica ad Alessandra Longo: il governo è senza una guida vera, sia la transizione ma niente vecchi film. Questo è il titolo dell'intervista a pagina 3 di Repubblica. Repubblica che ieri ha intervistato Giulio Tremonti, un'intervista che ancora fa un po' discutere oggi sui giornali. Ebbene, dice Bersani, parte proprio da quell'intervista di Tremonti: Tremonti è l'unico che non vede o fa finta di non vedere il problema. Un governo forte non perderebbe pezzi per strada, non avrebbe paura di una discussione sulla situazione economica, non lascerebbe senza presidio un ministero importante come quello dello sviluppo economico. Beh, Tremonti ha detto che forse una cassetta di mele marce esiste, ma l'albero e il frutteto, secondo lui, sono sani. È un'analisi inaccettabile, risponde Bersani. Sotto l'ombra del Gepensimi c'è gente che si sta muovendo in sfregio alla legalità, spesso approfittando di legislazioni speciali che Tremonti farebbe bene ad abolire, come il PD sta chiedendo da tempo. E, insomma, dice Bersani, il tema dell'incoraggiamento all'infedeltà fiscale, per esempio, eccolo qui che è anche il nostro tema del sondaggio. Gli italiani in America ti dicono: perché non fate come qui? Chi non paga le tasse va in galera. Il fatto è che Tremonti vuol fare l'americano solo con la fallimentare social card e con le regole, e non con le regole fiscali. Riguardo al governo delle larghe intese, dice, non sarebbe un film nuovo, un film già visto, bisogna superare il berlusconismo. Questo dice Bersani. Secondo me Berlusconi è ancora abbastanza forte per stare in piedi, ma non certo abbastanza forte per governare altri 3 anni. Vabbè, che si muova qualcosa nella politica, certo è una settimana importante sulle intercettazioni, secondo Repubblica c'è un PDL nel quale c'è la resa dei conti, ci sono anche tutte queste correnti, è nata liberamente, poi ci sono i finiani, ci sono i non allineati, c'è il correntone, si vedrà cosa succederà. Certo oggi Silvio Berlusconi è atteso un momento importante. Silvio Berlusconi questa sera torna in Piazza del Duomo, è la prima volta che torna in Piazza del Duomo dopo che ci fu l'attentato di Tartaglia ai suoi danni, cioè Massimo Tartaglia che gli scagliò la statuetta del Duomo in faccia. E perché torna Berlusconi? Oggi c'è una manifestazione per un concerto anche benefico per raccimolare soldi per salvare, per la ristrutturazione della Madonnina del Duomo, quindi un'occasione anche importante dal punto di vista culturale. Ci sono già però delle polemiche, perché intanto, dice il Corriere della Sera, ci sarà un premio che verrà dato a Berlusconi dalla provincia di Milano, dal presidente della provincia Podestà. Il motivo del premio: Silvio Berlusconi, uno statista di rara capacità che conduce il paese con responsabilità e lucida consapevolezza, una personalità dallo straordinario carisma, un uomo tra la gente e con la gente, dotato di eccezionali qualità umane e imprenditoriali. Ecco alcuni stralci delle motivazioni del premio che oggi consegnerà Berlusconi Guido Podestà, che ha fatto scatenare le reazioni. C'è chi dice assolutamente inopportuno, è una giustificazione sbagliata. C'è chi difende, come il ministro Marastella Gelmini, che dice Nessun altro politico in Italia merita il premio Grande Milano più di Berlusconi, che incarna e rappresenta l'operosità, la generosità, la carismaticità milanese. Staremo a vedere. Di certo pare scongiurato il duetto Canoro con Charles Aznavour, che si esibirà questa sera a Milano e che in un'intervista proprio al Corriere della Sera, in maniera diplomatica, l'86enne chansonnier dice: Berlusconi e io non abbiamo lo stesso repertorio, lui canta più i brani di Charles Trenet. In questo modo fa capire che il duetto non ci sarà, il duetto Canoro. Però, sapete, l'imprevedibilità di Berlusconi non si sa mai. Di certo, ci informa il giornale, Berlusconi donerà 1 milione di euro al Duomo di Milano. Proprio ecco, per la ristrutturazione, perché per la grazia ricevuta dalla Madonnina che lo ha protetto durante l'aggressione del 13 dicembre 2009. Per grazia ricevuta è il titolo di quello che forse è il più bel film di Nino Manfredi, scrive Rino Camilleri. La storia di un ateo che, miracolato due volte, comincia a porsi qualche domanda, anzi la domanda con la D maiuscola, quella sul senso della vita e dell'esistenza, quella che il pensiero debole e egemone nei media occidentali vieta di porsi. E così, insomma, Berlusconi dice, appunto, il giornale sa bene di essere l'uomo più odiato dai liberals di tutto il pianeta, salvato, dice, dalla Madonnina per questa, dopo questa aggressione di Tartaglia, ha deciso di donare, secondo il giornale, 1 milione di euro per la ricostruzione del Duomo di Milano, per la grazia ricevuta dalla Madonnina. Come detto, però, la questione politica sullo sfondo è sempre quella, cioè sarà la settimana decisiva, le intercettazioni, i Fignani verranno allo scoperto, magari votando contro, oppure si ricomporrà tutto. Di certo il giornale in prima pagina con Vittorio Feltri fa l'ennesimo attacco, ormai se ne è perso anche il conto, a Fini, o meglio l'ennesimo invito a dire Fini se ne va dal PDL. Ecco il titolo di apertura del giornale, Fini esce dal PDL, sarebbe ora. Ieri, scrive Feltri, il Secolo d'Italia ha spiegato i motivi per cui Fini dissente da Berlusconi e dalla sua idea di partito. Tutti questi articoli degli autori sono concordi nel dire che così non si va avanti. E Feltri fa poi un'analisi del partito Berlusconi, dice: il successo di Forza Italia e del PDL discende dal carisma del leader, piaccia o no, è così. Il PDL funziona perché non è un partito ma un contorno, il contorno di Berlusconi. E dunque, non ce la fate a resistere in panchina? Non riuscite a fare il numero due? Andate in pace e che la pantomima sia finita. Così finisce l'editoriale di Feltri. Certo, qualcosa si muove anche a sinistra, se ieri Nichi Vendola, abbiamo sentito anche il GR24, è stato molto esplicito a dire si è autocandidato. Il governatore pugliese ha rotto gli indugi, voglio ricostruire l'alternativa. Sull'unità Vendola già si candida e dice: spariglierò il centro-sinistra. Tra l'altro c'è una esilarante vignetta di Staino a pagina 3 dell'unità con la figlia di Bobo che chiede: Vendola, mi dice, mi candida alle primarie per sparigliare il centro-sinistra. E Bobo: strano, se c'è una cosa di cui il centro-sinistra non ha bisogno è proprio di essere sparigliato. E tra l'altro su questa candidatura di Vendola si cimenta anche il Corriere della Sera. Per la verità il Corriere della Sera mette in luce l'unico giornale che mette in luce questo aspetto e gli dà anche ampio risalto, un accenno del discorso di Vendola ieri, che ha parlato credo a Roma. Ha fatto al villaggio turistico Bea San Giorgio di Bari, ha fatto una serie di incontri anche con i giovani e ha citato che cosa? Ha fatto un paragone. Vendola, ed è il titolo a pagina 6 del giornale del Corriere della Sera. Carlo Giuliani, eroe come i due giudici Falcone e Borsellino. Carlo Giuliani ucciso al G8 di Genova del 2001. Voglio vincere, questo è il passaggio del discorso contestato dal Corriere, vincere per le donne e gli eroi dei nostri giorni come Falcone, Borsellino e Carlo Giuliani, definito da Vendola l'eroe ragazzino, ucciso da un carabiniere quando una generazione perse l'innocenza e fece i suoi conti con la morte. Questo paragone è molto critico, che negli altri giornali non viene diciamo neanche accennato, viene accennato all'interno degli articoli, per il Corriere della Sera invece da spunto al titolo di prima pagina, anche un editoriale di Pierluigi Battista, critico, e appunto il titolo di pagina 6, Vendola, Carlo Giuliani, eroe come i due giudici. A proposito di giudici, da qui voglio ripartire dopo il traffico, perché è oggi il 19 luglio 2010, 19 luglio 92, ci fu l'uccisione di Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta in Via D'Amelio. Come detto, oggi è anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Tra l'altro, voglio fare una polemica tutta mia, è una cosa vergognosa, sui giornali non c'è mai scritto, sempre l'elenco delle vittime, e le persone che sono sopravvissute non vengono neanche mai citate. E allora nessuno ricorda che certo morì Paolo Borsellino, morirono la gente della sua scorta, ma Antonino Vullo, segnatevi questo nome, Antonino Vullo, che era lì, che era un uomo della scorta, è l'unico ad essere sopravvissuto in quella strage di Via D'Amelio, non viene neanche mai ricordato, come se essere vivo sia una colpa. Antonino Vullo, che ancora oggi, ve lo dico per certo, porta con dolore, con immenso dolore, il ricordo di quella tragedia, immenso dolore sia fisico che psicologico. Però non ha neanche l'onore di essere citato, perché non è morto. E quindi gli si fa in qualche modo una colpa perché è sopravvissuto. Ma anche lui faceva parte di quella scorta che è stata sterminata con il giudice Paolo Borsellino. Alcuni degli amici del giudice Borsellino conoscono la verità. Questo è il titolo dell'intervista che l'Unità fa a pagina 6 e 7 in esclusiva al procuratore aggiunto di Caltanissetta Nico Gozzo, che indaga le nuove indagini sulla ricostruzione di Via D'Amelio, perché sapete che Gaspare Spatuzza, il famoso pentito Spatuzza, ha ricostruito la strage di Via D'Amelio dicendo: guardate che sono stato io a rubare l'auto imbottita di tritolo, non Vincenzo Scarantino che avete condannato. E dice Nico Gozzo: in Italia con le stragi di mafia c'è stato un golpe, esordisce così. E poi dice: è un paese brutto, visto qui da Caltanissetta, capace di dare tutto il peggio di se stesso. Un paese dove non esistono buoni e cattivi, dove il potere corrompe tutto quasi. Poi parla un po' dell'indagine, per la verità non parla tantissimo, perché non è che può dire tantissimo, però dice alcune cose interessanti. Per esempio, Borsellino, la domanda di Nicola Biondo: morì per la trattativa, la famosa trattativa? Muore anche per la trattativa. E ci sono molte persone che lo potrebbero raccontare. Alcune di esse, dice il procuratore Gozzo, vanno ricercate tra alcuni dei cosiddetti amici di Paolo Borsellino. La cifra essenziale della sua morte è la solitudine e il tradimento, una cosa orribile per un uomo come lui, che aveva bisogno di voler bene, di dare e ricevere fiducia. E poi la frase ancora più pesante: in Italia tra il 92 e il 93 si è consumato un golpe, un sistema politico spazzato via con le stragi. Ci sono state trattative, lo confermano ufficiali dei carabinieri. Questo è un fatto già accertato da sentenze. Ci accusano di ascoltare uno come Massimo Ciancimino, ma lui è stato indubbiamente testimone di alcuni fatti. Saremmo stati pessimi investigatori se non avessimo ascoltato la sua versione dei fatti. Fu un golpe. Questo è il titolo di prima pagina dell'Unità, che riprende questa intervista a Gozzo, e ci sono le foto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in prima pagina. Io voglio citare il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore in prima pagina, come detto, è importante perché c'è tutto uno sviluppo sull'età della pensione, non si ferma. Salvatore Padula e Giovanni Parente spiegano che cosa cambia per le pensioni con la nuova, con anche la manovra, perché gli anni a disposizione aumentano, la pensione arriverà più tardi. Per esempio, chi è nato nel 2009, secondo l'Istat, vivrà in media fino a quasi 79 anni se è uomo, 84 se è donna. E dunque dal 2015 diventerà a pieno titolo un asse portante del nostro sistema previdenziale, quello che sembra un traguardo prima o poi ineluttabile. Il maxiemendamento alla manovra infatti ha stabilito e ha introdotto definitivamente il concetto di speranza di vita nella definizione dei requisiti necessari per il riconoscimento del trattamento previdenziale. Dunque si arriverà a una pensione che diventerà scorrevole in qualche modo, sempre meno ancorata ai parametri fissi e certi, come sono stati imparati da generazioni, da un paio di generazioni nell'Italia repubblicana, e si arriverà a questo concetto di pensione scorrevole. In pensione con i requisiti scorrevoli, leggete a pagina 3 il Sole 24 Ore, ci sono tutti i dettagli di come cambiano le pensioni. Detto che sulla manovra oggi scioperano i medici, questo è un dato anche importante, l'abbiamo sentito nel GR, comunque le cure ripassate domani, questa è l'apertura del Quotidiano Nazionale, importante per tutti gli italiani che oggi avranno bisogno di un medico e che probabilmente avranno difficoltà nel trovarlo. Voglio andare in chiusura perché voglio citare alcune cose. Ho intanto una notizia che viene citata solo dal Corriere della Sera, ci sono due persone che sono scomparse, una però è citata da molti, il giornalista Mino D'Amato, giornalista che è diventato famoso anche per aver camminato sui carboni ardenti in diretta Domenica In nel 1990, viene ricordato un po' da tutti i giornali, così come invece solo sul Corriere l'ho trovata, è morta la vedova Moro, di Aldo Moro. Aveva 94 anni, Eleonora Chiavarelli, vedova dello statista democristiano Aldo Moro, rapito e ucciso nel 78 dalle Brigate Rosse, è morta un paio di giorni fa. Eleonora Moro, che non partecipò ai funerali del marito, in polemica con la linea della fermezza, cioè la scelta di non trattare coi terroristi. Lo ricorda Marco Nese sul Corriere della Sera. Ma voglio andare a Cristiano Ronaldo, perché hanno beccato la madre. Cristiano Ronaldo è diventato padre, lo sapete, in maniera misteriosa, ha detto non saprete mai chi è la madre, ha preso il figlio, l'ha portato in Portogallo, ma si sa, noi giornalisti. E allora pare che un giornale inglese abbia scoperto chi è la madre. Ronaldo è il colpo di fulmine che arricchì la cameriera, una cameriera di Los Angeles. I fatti sono questi: si trovava a Los Angeles un'estate fa, un paio d'estate fa, adesso fate i calcoli, no? Visto che è nata da pochi giorni, era in compagnia di Paris Hilton, ma è rimasto colpito da una cameriera. E pare che l'approccio sia stato questo di Cristiano Ronaldo: me, you, fuck, fuck. Oh, me e you, magari sapete che vuol dire. Per fuck cercate il vocabolario italiano-inglese più vicino. A che la cameriera è rimasta un po' stupita, ha detto insomma, un approccio, come dire, un pochino aggressivo, no? Allora Ronaldo è passato al più me, you, kiss, kiss, romanticone. E la cameriera, di fronte a questo romanticismo di Cristiano Ronaldo, è crollata e però galeotta fu la sera. E questo figlio gli è già costato 12 milioni di euro per mettere a tacere la madre e tenersi il figlio, Cristiano Ronaldo.